Buonasera, stasera siamo qua per me, quindi io parlo il meno possibile e sono anche molto emozionata. Vi ringrazio tanto di essere venuti. È davvero bello vedere tante persone, tanti amici in un'occasione come questa. Non è scontato a Firenze, vi ringrazio ciascuno, uno per uno, veramente per essere qui, anche perché ho chiamato e hanno accettato di parlare di questo mio ultimo libro, Tande, due fra le persone veramente che stimo di più in area toscana, ma non solo naturalmente, cioè poeta e critico Paolo Maccari, il poeta e critico Giacomo Trinci, che ringrazio moltissimo di essere qui e buona serata, buon ascolto. Paolo. Sì, buonasera e grazie a Rosaria in realtà dell'invito. Mi fa molto piacere essere qui appunto a parlare di questo libro. Lei è stata così discreta da non nominarlo nemmeno, allora lo nomino subito io. Si intitola Tande e è Vidya Editore e è uscito appunto quest'anno. La composizione del libro dà alcuni indizi interni abbastanza palesi. È comunque recente, Rosario, non è un libro che stava da molto tempo nei cassetti, quindi è un libro appunto scritto e pubblicato, come probabilmente dovrebbe essere in generale. Mi sono appunto preso qualche nota e una cosa che subito balza all'occhio del presentatore è la difficoltà di presentare Rosaria per una ragione semplice, perché ora io e Giacomo diremo alcune cose, ma il bello di questa serata arriva quando poi Rosaria leggerà. È una cosa che dico spesso di lei e la penso profondamente. Credo che sia una delle pochissime persone in Italia che scrivono versi che sappiano recitare i propri versi e non solo. È un'abilità certamente così innata, ma è forgiata comunque da una tecnica appresa, studiata e meditata. Quindi anche la lettura, diciamo, di Rosario Russo è già di per sé un atto creativo, oltre che appunto comunicativo. Da questo punto di vista, a mio avviso, forse le ha quasi nociuto questa doppia natura. Lo scrissi in un postfazione di un suo libro che si chiama Medea, la Medea, una Medea, scusate. In un certo senso, Rosario Russo non è troppo colta, troppo letterata, troppo consapevole per essere rubricata tra i poeti performativi che spesso invece hanno tutt'altra attitudine. D'altronde è troppo performativa, troppo capace di una restituzione che sta su un crinale tra il teatro, la poesia e quasi appunto la critica, l'autocritica poetica orale, per piacere del tutto, per convincere del tutto alcuni letterati che hanno invece un'idea molto statica dell'arte poetica, cioè ancora, anche se fanno mostra di essere molto alla page, sono ancora molto attaccati a una teoria dei generi. E in questa teoria dei generi diciamo che Rosaria scappa da tutte le parti. Ecco. Questo probabilmente non le ha nociuto così nella percezione critica, le ha nociuto, l'ha favorita molto però nella riuscita artistica. Tra gli appunti che mi sono preso, leggo questa cosa che è quasi un po' apodittica, un po' troppo assertiva. Ora le asserzioni non vanno per la maggiore, chi asserisce è considerato fascista, ma io però asserisco con moderazione e sì, buono buono, sottovoce. E mi ero segnato che non solo con questo libro, ma anche con questo libro, l'autrice ha compiuto un'azione igienica di giustizia sommaria. Mi piace abbastanza l'idea proprio della giustizia sommaria, perché perché sulle prime può sembrare davvero che giudichi e mandi in maniera molto aggressiva. Qual è l'operazione in fin dei conti, forse? È quella di individuare tutti gli scheletri nel proprio armadio e, diciamo così, nell'armadio generazionale. Una volta individuati, spalancare l'armadio e quegli stessi scheletri invitarli alla danza, chiedergli di roteare, di danzare, e mentre questo avviene, e avviene una danza che è a volte legata a una melodia quasi aulica, a volte invece da lazzi quasi plebei, dentro questa, come posso dire, ondulazione molto ripida, ecco che l'autrice poi quegli stessi scheletri li impallina uno dopo l'altro. È una strage gioiosa di vari emblemi. Si può quasi dire che in un certo senso si assiste alla demolizione di un Pantheon. Questo Pantheon è un Pantheon familiare, ma è anche un Pantheon appunto generazionale, e questi stessi colpi si guardano bene dal risparmiare anche l'autrice stessa. C'è una foga a volte che è senz'altro masochistica. Quello che sembra mancare, anzi quello che c'è, è sempre in questo ambito una guerra all'eufemismo. Definirei questa poesia anti-eufemistica. L'eufemismo è quello appunto che ci porta a indorare la pillola. Qui invece ogni cosa cerca di essere spiattellata così com'è, e già di per sé questo è esplosivo. Vi ricorderete che una delle frasi famose di Edgar Allan Poe è che diceva: basterebbe per scrivere un libro assolutamente originale scrivere esattamente quello che pensiamo. Però non si può, perché probabilmente il foglio si incendierebbe, tanto sarebbero terribili le cose che scriveremmo. Rosaria in questo senso incendia il foglio, e infatti la temperatura di quello che scrive è molto alta. Un'altra cosa che volevo dire riguarda l'inizio. C'è una specie di introduzione fatta di pochi versi, e è davvero la chiave all'inizio dello spartito. È una chiave impressionante, perché alcuni versi, l'inizio, anzi, è questo. Ve lo leggo paro paro. Io odio mia madre odia me. Che è appunto un inizio di una forza e anche di una violenza abbastanza impressionante, che prosegue dopo un po' così. La poesia è il vomito per cui non mi sorregge la fronte, perciò odio la mia poesia. Siamo, cioè, in una dimensione ultimativa, non c'è niente di decorativo. La linea è quella che vuole andare verso la polpa delle cose. Poi iniziano i vari testi, e l'inizio è di nuovo in chiave, cioè in una chiave così che appare mortuaria. C'è un cimitero vicino, da quel cimitero nascono dei pensieri, e la situazione contingente va in questa direzione, si capisce che siamo in tempo di Covid, e nei testi successivi questa nota sembra tenuta, cioè una nota luttuosa, però in realtà non avviene una ripetizione, perché si scioglie poi in narrazione. Inizia una specie di sabba di quegli scheletri che vi dicevo prima. In un certo senso sembra, almeno a me ha ricordato, non so se voi ricordate l'inizio di Cuore di Tenebra. Nell'inizio di Cuore di Tenebra c'è Marlowe, che è sempre l'alter ego, no? Spesso l'alter ego di Conrad, che è sul Tamigi al tramonto, e si trova in barca, vede il grande mare e da lì a ricordare poi un altro fiume, il Congo, no? L'associazione arriva e racconta quella storia che poi sarà Apocalypse Now. Succede un po' lo stesso. La visione del cimitero innesca poi tutta una serie di ricordanze che si rifrangono dall'infanzia su fino all'adolescenza. Detto così, detto come ho detto finora, è chiaro che sembra che sia un libro appunto intonato soprattutto a quasi una nota lugubre. Non è affatto così. È un libro, come spesso accade nei libri di Rosaria, è un libro anche gioioso, anche con degli argomenti tremendi. Da cosa può derivare una sensazione corroborante nel lettore di fronte a questo? Beh, deriva dalla vitalità della forma, cioè dal gettito delle immagini, che quasi contraddicono questa stessa nota luttuosa, perché è talmente giovane l'energia con cui appunto il gettito viene fuori, che quasi contraddice lo stesso contenuto di cui è veicolo. C'è un aspetto poi che almeno a me non smette di conquistarmi e che secondo me molta critica ha sottovalutato in Rosaria, e è quello che ho accennato un po' prima, cioè l'energia davvero plebea di alcuni suoi sue espressioni. Non dico plebea naturalmente per opporla a un'aristocrazia di qualche tipo, non mi sembrerebbe un po' fuori tempo massimo. Dico plebea nel senso di quella amarezza toscana che è al fondo di molto di molta toscanità. Non è la toscanità paciosa di Fucini o degli scrittori degli ottocentisti manzoniani, è il contrario. È quella quell'amarezza che si trova in Tozzi, ma si trova in Viani, si trova in Rosai. C'è quel fondo di una tragedia immedicabile che stranamente mette allegria. Per un controsenso strano, quella stessa mancanza di speranza dà l'euforia della libertà, perché ormai niente è da sperare. Allora questo davvero mi rende possibile scatenarmi. Un manifesto che chissà, magari Rosaria apporrebbe la firma, il più bel manifesto letterario del futurismo, che sono belli, sono tutti belli, e Marinetti era un genio proprio nei manifesti, però forse il più bello non l'ha scritto Marinetti, ma l'ha scritto Palazzeschi, e si chiama Il Controdolore. Il controdolore chiama a un rovesciamento sistematico di tutte le situazioni tragiche. Chiaramente non si perde la tragedia, perché rimane sottesa, però dentro un carnevale, per l'appunto. Ecco, io molto spesso mi viene a definire carnevalesca la scrittura di Rosaria, e non vi nascondo che a volte mi fa proprio ridere, ma in senso vero, cioè non quel... non è frizzante e è una simpatica ginnastica del cervello in cui annoto con piacere la butad. No, mi fa proprio ridere perché trova delle espressioni, secondo me, molto buffe, molto divertenti. E perdere questo aspetto anche di pura giocosità, secondo me, significherebbe perdere un aspetto importante della sua scrittura. Come? Me ne rallegro. E un altro aspetto, però, c'è questo che ho definito, e spero aver spiegato in che senso, aspetto di sgranatura triviale, anti-eufemistica. È un aspetto che convive con però invece anche prelievi di cultura squisita. Siamo dentro un pasticcio gaddiano. È così però a volte viscerale quello che dice, che mi verrebbe da sostituire la parola pasticcio con quella di bolo, è qualcosa che viene dentro e che comunque è impastato di quasi tutto. Come mai è così autobiografica la sua scrittura, che pure è una scrittura lampeggiante, in cui è difficile ricostruire delle dinamiche se si volesse tradurre o fare la parafrasi? Eppure si capisce che c'è tantissimo lei, perché non rinuncia a nessun impulso latamente culturale che ha ricevuto dall'adolescenza in poi, cioè dalla cosa, dall'aspetto più pop all'aspetto invece più scelto. Tutto collabora, coopera a creare appunto questo pasticcio. Perciò forse qualcuno può mettere in dubbio che sia l'autobiografia della signora Lo Russo Rosaria, però certamente è l'autobiografia della sua voce e forse delle sue orecchie, cioè di quello che ha captato dall'infanzia fino all'età adulta. Ovviamente, se ci sono anche aspetti di contenuto che non ho trattato, ma forse tratterà Giacomo, forse non si tratteranno e non importa, però è anche un libro di disamore e di cattiva educazione. C'è forte questo aspetto, cioè un aspetto che giudica il passato anche secondo il metro di rapporti che sono stati strettissimi e allo stesso tempo contrassegnati da un'incomunicabilità. Anche questo è un aspetto, e di fronte a questo non c'è in un certo senso redenzione. Voglio dire che non c'è un aspetto sentimentale. Diciamo così, tutto quello che afferisce a un ambito interiore in questo libro e in molti libri di Rosaria, più che darsi come serie di rapporti sentimentali, si dà nei termini di trauma. È una specie di registro dei suoi traumi. E come tale però ha appunto una è quasi contraddetto dalla stessa gioiosità, dalla stessa forza con cui questi traumi forse non sono risolti, ma sono visti. Forse appunto è una specie di teatro dell'autocoscienza, e come tale ha un grande valore anche liberatorio. Grazie. Allora, buonasera, anch'io ringrazio Rosaria e sono contentissimo e onorato, l'ho detto, di essere qui con voi, perché mi lega a voi un senso di ammirazione e di amicizia insieme molto forte. Sono veramente contento di essere qui. E, che dire, volevo parlando di questo libro, parlare proprio dell'effetto che ha avuto su di me e che ha su di me Rosaria, poetrice. Cioè, quando leggo i libri di Rosaria, mi succede raramente, mi succede con pochi poeti, anche quelli più grandi, mi succede con Zanzotto, mi succede con Celan, mi succede con Pasolini, di sentire il bisogno di leggerla a voce alta anch'io, perché i segni e i suoni di Rosaria mi rintronano felicemente dentro e non mi lasciano più. Cioè, provo un bisogno di condivisione acustica, sonora, e questo mi fa capire perché sono qui a presentare questo libro di Rosaria. Io odio le presentazioni, non mi riesce a farle, non riesce a organizzarle soprattutto, ma le odio perché ci sento sempre il puzzo della riesumazione di un cadavere. Il cadavere è quello della poesia, che ormai è un cadavere, no? Imbellettato o meno che sia, è il morto di cui nessuno parla, ma è morto. Cioè. E quando c'è la presentazione si fa la respirazione bocca a bocca al cadavere, illudendoci che farlo ritornare in vita fra di noi. Questo non succede né con gli autori di cui ho parlato prima, né tantomeno con i libri di Rosaria, perché appunto i libri di Rosaria non ornano un qualcosa di morto, non si rifanno a un qualcosa di già statuito, di già da esumare o da riesumare, peggio ancora, ma mostrano come si fa la poesia. Non cos'è stata, non l'esumazione di un corpo morto, ma attraverso la sua lingua tagliente, sempre viva, formata, come diceva giustamente Paolo, da questa commistione straordinaria fra il plebeo, il basso e l'aulico che cozzano insieme e che non ha niente di manieristico, ma anzi è smanieristico, è la smania, è il prodotto di una smania che non ha niente, è cannibalesca, è appunto fagocitante, è appunto questo ronzare di cui parlava anche Betocchi in quel saggio bellissimo su come si forma la sua poesia, no? Quando parla di questo ronzio, di questa arnia ronzante, no? Che è il prodotto appunto di questa sorta di poesia che si va facendo e che non ha niente di mortuario o di esumato, ma è qualcosa che si mostra mentre si fa, mentre si crea. Ecco, la lingua straordinaria di Rosaria è per questo che è così permeante, così invasiva, felicemente invasiva, è perché si mostra mentre si fa, non è un qualcosa di morto, non è il morto orale, è un orale vivo, è la voce, infatti, è la voce che continua a fluire, quindi niente di manieristico, ma è la smania, insomma. È quella smania che, per esempio, nella parola teatrale, nella parola che per me è stato il melodramma, per esempio, è continuamente come l'onda del mare, tutto un trafficare, come diceva Campana, no? Perché è tutto un rumoreggiare che ritorna, che non smette mai. E è impossibile resistere alla messa in carne, in suono di questa poesia. Però io non lo faccio perché è Rosaria che è così bravissima nell'incarnare la sua parola, nel farne appunto non un esercizio di stile, ma un esercizio di gola, di voce, che lo sentirete insomma nella parte che lei appunto mostrerà alla fine. Che dire di questo libro? Quando ci si trova di fronte a questa grande perlustrazione di estensione linguistica, di questo spazio vocale così esteso, io penso sempre appunto alla musica, alla potenza della musica, che in Rosaria non è mai qualcosa di esteriore, di appiccicato a qualcosa appunto di non musicale. La musica è il suo fare poesia, il suo essere dentro proprio il ritmos, quello che si chiama il ritmos, no? La potenza ritmica. Tant'è vero che la geminazione continua di parole, di suoni, che partono per un delirio potenzialmente all'infinito, cioè che si può far perdurare e si fa continuare. Infatti ha su di me un'azione, ripeto, dice continua te ora, fallo te, cioè ricontinua. E infatti perché è contagiosa quando la poesia non è morta, contagia il lettore, lo prende, come succederà, come dice Dante, anche a Paolo e Francesca, no? Il contagio della lettura, no? Il contagio del testo, il contagio che non è il testo, è veramente questa voce, è veramente questa potenza fonica che in Rosaria appunto emerge in modo. Ma io dopo questo vorrei veramente lasciare lo spazio a Rosaria di mostrarcelo questo fatto, insomma, no? Perché è un fatto ed è un fare continuo. Non è mai, ecco, non c'è mai un momento in cui si può dire si posa il testo, si posa la poesia e si chiude, è finita. No, perché continuamente si fa continuamente, e quando lei la ridice, la ricrea di nuovo, quindi non è mai un momento di, non c'è mai un momento di stacco, di posa, no? Non c'è il fondo come nel vino, no? Non rimane il fondo, perché tutto è azione, azione appunto fonica, no? Grazie, non so che dire. Sono contento. Beh, io ringrazio molto per quello che hanno detto, mi conoscono, mi capiscono, siamo amici. Con Giacomo condividiamo un modo di fare poesia sicuramente molto, molto simile, e, che è così, siamo suonati, e, è così, non c'è poco da fare. Quindi io ora vado lì, leggo qualche cosa. Alla fine ogni ottava si racconta, faceva suonare al doppio. Cioè? Che vuol dire? Non ce l'ho fatta, non trovava la rima. Ah, beh. Quando finiva l'ottava, chiudeva l'ottava, era contentissimo. Faceva via, fa suonare al doppio la rima. Questo non la sapevo. Si racconta, Ora io ho scelto da leggere quelle che appunto corrispondono in realtà di più a quello che hanno detto entrambi, perché in questo libro ci sono molte, molte parti in realtà, alcune richiedono però una performance diversa e quindi ho deciso di non farle, mentre per il reading così... immediato le poesie della prima parte, in particolare alcune, quelle dove per aiutare un pochino anche a capire i fra virgolette contenuti, dico che ci sono molti riferimenti alla Quinta del Sordo di Goya, che è stata una delle cause scatenanti di questo moto incessante perpetuo, che ha ragioni varie mescolate, dall'autobiografico alla pittura, alla musica, al cinema. C'è tantissimo cinema qui dentro e quindi ecco, questi forse sono un po' di chiavi così per seguire un po' meglio questa riproduzione vocale di alcuni testi. Mescavo reperto mummia del mammolitico, del parletico a vuoto, del paralitico, del voto fatto al santo paraclitoride canterino, nel mentre che l'occhio strabico si aggirava fra le coscine di pollo in quella foto scolorita, fine anni 60, in cui al mio compleanno invitata me la canto e me la sono, con voluttà distratta, come Céline Medon, come Cavalcanti a Sarzana, mi azzanna la malaria dei rimorsi, ti pesto, appetendoti, divento tenacemente disappetente, serro la bocca, fugo i sughi che trasudi, svenendo mi aggiro fra le pinturas negras dei tuoi occhieggiamenti, dei tuoi spaventi in blocco, nel buio pesto della quinta del mio sordo elementare, non so corre la maestra Viviani, non soccorre la maestra Mannelli, brava consigliera, non soccorre la matematica applicata. Scorrevano le ore chiuse nel labirinto scolare, sguardavo dalla finestra sul cortile il tuo mozzicone di sigaretta che bragia acciaccata sul mio moncone, teso, proteso, artigliante nel fuoco sordo che mi affina, piccole lussurie penitenti, fioretti, castigata faccia al muro, conto presbite le pietruzzine, i vetrini colorati, le smanie, le rabbie, le furie che perseguitano il matricida Oreste, mio fratello Mite, col male al pancino. Dolorino, Dolorino, vai via da questo pancino, resta in quinta, non sforare, non sforare, aggirati raggirato nella quinta del sordo elementare e grida inascoltato, padre. pancio. Grida e rigrida, canta l'anello dei Nibelunghi. Sigfrido l'avrà ripescato e sei ancora lì, in furia, per Dio, in furia. Ecco. Questa è una. Trilling, trilling. Un mese di cortisone ce l'ho addosso, vi dico solo questo perché poi il mio lui ha letto Mein Kampf, ammira Hitler, è amico del padre di uno dei due Ludwig, allievo di un imbalsamatore di prede da caccia grossa, i due chirurghi estetici, di quelli che peccano magistralmente contro natura, cioè contro Dio, secondo un mai soppresso schema dei delitti e delle pene, cioè è pecca, sapendo di peccare, convinto di dovere e se ne compiace, mente o forse è, non ricorda più niente. Di tutto questo, forse è solo l'istinto macellaio, ma della bella macelleria, quella con i quarti appesi, trofei a scolare, sacro dolore, dentro quale mito morto gli si è svaccata la configurazione. Lo vidi a spasso una volta con una vacca bionda che sembrava un trionfo trans. Era la sua innamorata collaterale, era l'effetto placebo di un naso rifatto e le labbra, i gommoni a grandeggiare, in quale memoria nera. Non riesco a affogare questi guizzi di figurine debosciate, questi guizzi di pintura fiamminga. Ecco i reali comprimari di Spagna, quando schiava schivo di sguincio le mani di sogno del bruto e soffoco prona nel mio sudario incesto. Una pioggia in apnea di colpi alla cieca, eccesso del tutto di respirare. Allora mi addormento, pare, ma pago troppo cara questa fatal quiete. Ecce è odore di spirito bruciato e di acqua ragia, odore di pulito e di pericolo, disinfetta, accende, cauterizza, speleologo di faringole ringi in fiamme perenni, scruta gli orali e brucia le tappe all'esaminanda, non toccar con i ditini, forbici, bisturi e temperini e simili strumenti affilati e taglienti, recita la sacra filastrocca della mia crescita ovulare. Uvulari noi, la gorgheggiamo in coro muto ogni volta che vorremmo oltrepassare guardinghi, la tenda grigia dello studio, dietro scintillano metalli, ivi si forgia, indi si levano conati, lamenti, qualcuno lì piange, ma lì la mette la barba, le lime per unghie mangiate e curate, alle mani assicurate, sono troppo in alto per la man bassa manina. Odore di pino d'autogrill, proraso, la montata lattea della schiuma prima della luce, è la prima mattina del cosmo, sciacqua il pennello, gargarizza, scaracchia, impasta roteando, spennella, rosi rosicchia, guarda in silenzio il gorgo saponato sparire, si porta alle labbra ruvide, morbide, tande e venera quel sole neonato che risplende solo per lei, avvanvera al tramonto, torna, si cambia, intinge, diluisce, stempera colori a olio nella veranda verde, dipinge bimbi che corrono col palloncino, occhieggia la tela, raggruma oli, corregge, sciacqua i pennelli, accuratamente accatasta, mette in ordine, si attribuisce l'opera, taglia a fette parole grotte, con forbici, bisturi, temperini e tutti gli strumenti spartiti, odore di acqua ragia e di spirito, è resina di un bosco che brucia. origlia in quinta. La tenda grigia è un sudario. Dietro le membrane dei timpani si sollevano gridi, soffochi, gorgogli. Se scosta la tenda, le comparse assoldate assordano, ma a scomparsa la tenda grigia dichiara il mondo asettico. Si spaccano setti nasali e si rifanno docili profili ritratti da Antonio del Pollaiolo al Pol di Pezzoli. Una stretta alle corde vocali e la bambina è accordata, schiamazza altrove, distolta dal nascondiglio, verbalizza la ricostruzione di un volto apollineo e torna a nascondersi in quinta, a scomparsa. Porci con le ali, volati lassù sullo scaffale più alto della libreria del salotto, dove la luce puntata dal faretto accecante non arriva, come anche il manuale di medicina legale, costola al muro e sdraiato, faccia alla polvere. Noli me tangere intimano dallassù, ma noi due vi abbiamo scoperti, vi abbiamo colti in fragrante quando meno vi aspettavate che noi due vi vedessimo tutti contenti a giocare agli impiccati, a strozzami, a vieni qui che ti faccio vedere chi sono, vieni qui che ti faccio vedere Pisa. Impiccati così nei colletti d'amido, imparammo che di sesso e 68 si muore. Per ingannare il tempo, dunque, dietro una memoria morta cala, cala un velo pietoso come un varicocele, carico, carico di piccoli delitti, grandi lutti, tutto completo, rutti a ripetizione, senso di oppressione al petto, sguardo smanioso e liquoroso che volge a strabico, come Céline mentre vezzeggia un cenerino a Medon, un pidocchio riunto, santo e fascio, viscido, inerme. Ma gli va a occhio la camera, finge di rifuggirle e invece chiede gli alimenti, incrementa il pavor nocturnus attraverso gli eredi spiantati del secondo Novecento, quando anch'io nel mio piccolo avevo la ferita aperta. La ferita che ogni mese buttava caterve di retorica, rigurgiti dal mirogurge che mi rugge in gola. Cantavo, come no, cantavo a squarciagola tutta la melopea del tuo teatro lirico, con le voci spezzatini che mi raschiano in gola. Un falsetto cronico arrochì mugolando e colobbava resina dagli angoli della bocca appiccicosa, paesata, espatriata, traviata, cavalcioni sulla tua testa. Un intralcio, ecco, divenni e divenimmo. Venimmo meno in massa, ma gridando, gridando in tanti, a piena voce, i pugni alzati, i pugni accartocciati. Compagno, lo russo, sarai vendicato. La prima volta che ho fatto l'amore era in un covo di prima linea abbandonato. I maschi in massima sicurezza a Volterra, la femmina scaltra a Parigi, vendeva noccioline, ritagli di giornale, un via vai di musicisti, di lingue e la strada del mio bel Sanfrediano, i profumi di coccoli fritti e di droghe leggere e la camicia bianca aperta sul petto bianco del mio ragazzo che spinge. Entra l'amore enorme, un incantesimo di stelline all'uovo e fame chimica ci bloccò in un fermo immagine. Adesso che è passato un secolo, mi dicono di te, un altro nome altrove, ma sempre tu. Mi dicono al telefono che ti hanno trovato, accasciato ai piedi del tuo computer, morto, forse un malore mentre scribacchiavi o ripassavi qualche aria di soprano, non sapremo mai altro, altra camicia bianca, la stessa, aperta sul petto bianco, tu altro, tu altrove, eravamo in tanti, in questo canuto notturno cileno che ti ha avvolto leggero, spero tu sia dolcemente desaparecido dopo un'ultima sfuriata all'incanto nell'amore enorme. Quest'ultime due sono dedicate al mio amatissimo amico drammaturgo Massimo Sgorbani. Questa e questa qui. Il Guido, che qui riecheggia una famosa poesia da manuale, in realtà era un amico anche di Massimo. E mems, Guido, i vorrei, pensavi, anzi volevi, no noi che volevamo e non levamo tutto, ma ci distaccava nel club, un'infanzia da circolo chiuso, quattro allegri ragazzi morti di un bildungs romanzero incompiuto, appassito sul nascere passo dopo passo, nel grande freddo. E non bastasse, circolava pure una seria Samara tra di noi, i capei neri sparsi all'aura pixel ronzinante degli horror coreani. Che paura, che angoscia trapelava fra gentiluomini col cappello all'inglese, quante arance meccaniche abbiamo spremuto e ridotto a carillon estivi, a neni e ridanciane, che la festa era durata poco, come tutte le cose belle, ma lasciava uno strascico, le cose sottili nell'aria, occasionalmente sfioccanti, consolandoci. Ad occaso un celeste, Occam e Eckhart tacevano in pace, composti, fumando. Santa Teresina in menopausa tracollava piuttosto su palcoscenici improvvisati e non batteva ciglio ad ogni incremento di cilicio. Oggi finalmente sposi, oggi sposa e tu oggi sposo e noi e mems, pensiero stupendo. Grazie. Ecco, se c'è domande, curiosità, partecipazioni, schiamazzi, proteste, siamo qui in tanti, sarebbe lieta di... Tanto ringrazio ancora perché c'è un pubblico che dire scelto è meraviglioso e di poeti bravissimi, cioè è una vera festa oggi, dai. Giovanni Maccari ha scritto un libro su Gogol che dovete leggere tutti perché è bellissimo, Gaga. Niente, vi ho annoiato mortalmente. Michael, è stata registrata questa lettura? Sì. Però diceva giustamente Giacomo, e quando si inizia, la cosa più, io scrivo direttamente sul computer ormai, per quello non si incendia la pagina, il problema è quando smettere, e la cosa divertente forse da raccontare, visto che siamo comunque tutti molto bravi qui, tutti bravi sono qui, no, c'è questa cosa curiosa, che quando ne correggo una, poi si ricorreggano tutte. Cioè è buffo perché a un certo punto poi bisogna disfarsene perché sennò potenzialmente hanno un effetto, è stranissimo come procedimento. È l'incorreggibile freddurismo del tuo linguaggio, è il freddurismo alla Savino, la freddura diventa un continuo, uno tira l'altra. Esatto. Perché non si ferma più. È così. Perché la geminazione dei suoni e delle... è la geminazione dei suoni continui che traboccano, che appunto... No, è che è l'orecchio, la testa che ci rintrona appunto, no? Questa sorta di cassa di risonanza appunto che viene da chissà quale mondo, da quale emisfero. No, perché si accende, lì ha detto molto bene Paolo, cioè si è acceso in queste passeggiatine al cimitero. Mm. Poi parte il meccanismo e va. Sì. Con Commedia fu la stessa cosa. Sì, infatti. Questo è Commedia 2. C'è lo stesso personaggio, è Rosy Rosicchia. Che è una... E poi c'è questa fenomenologia del dissesto che dura... di libro in libro, in te, cioè c'è una sorta di ferocia anche decostruttiva continua che dura da libro in libro, e come diceva giustamente però Paolo, che non genera però sgomento pessimistico, è gioiosa appunto, strana, ed è il controdolore palazzeschiano, diceva giustamente Paolo. Il secolo è già finito, il Novecento. Sì, non ci sa più nulla però, da perdere. Però, e questa la però, volta, siamo belle idee. Però è finito, è tornata all'inizio. No, torna all'inizio. Non hai paura. Vai, ma calciala di qualcosa. No, io ora faccio la domanda a te, non la fa nessuno, la faccio. Eccolo invece. Allora, non so se c'è. Guarda, però ci arriva, in realtà. Ti volevo chiedere, com'è che riesci, appunto stavi parlando di che fatto che scrivi al computer, che torni a correggere, che ogni volta questo ti porta a... ti do del tu, anche se non ti conosco, perché dopo questa recitazione mi sembra di conoscerti. Esatto. Come riesci a un certo punto, a un certo momento, dire basta, questa va bene così, questa resta così, questa la metto su carta e almeno in questa versione rimane eterna e non ci posso rimettere le mani sopra? Come riesci a superare questo bisogno che penso sia impellente di rileggersi e ricambiarsi e rimodificarsi? Nonostante sia giusto dare un'importanza al ripescaggio inconscio dell'infanzia, quindi autobiografico, però è un elemento, è quando c'è, come dire, un composto, un po' come cucinare, no? Quando c'è un composto che funziona, a quel punto non lo tocco più, perché aggiungo un'altra cosa diventa cattivo, lì però è una tensione, è una grande pratica. Cioè io ho fatto sempre, ho letto tanta poesia, tanta voce per lavoro, mi sono inventata solo per... ho una prassi continua, quindi spero di riuscire a non sbagliare questi elementi qui. Ma c'è molta poca volontà e anche molta poca, nessun compiacimento, cioè io non vedo l'ora di questo. Quindi non è che mi diverto, però un po' anche rido. Quando fa ridere rido anch'io, perché non sono io che faccio ridere, è la lingua che ridi. Questo è strano, eh? Questo quando scrivevo Penelope mi facevo delle risate. Scrivevo una cosa, penso, no! Così, perché era venuto da sé questa cosa. Dice, perché? Ma da dove esce? Si era formato da sette generazioni. Sono delle scisti. Cioè, quando mi venne da 20 anni dell'altra partito questa casa, da 20 anni partito questa casa ammogliata, ammogliata al posto di ammobiliata, sì. Si cascia, no, mai. E anche partito, ora va da sé, ora va. Cioè la lingua va da sé, è inconscio. La lingua poetica è una lingua lacaniana, cioè va radicomatica. Questa qui. Sì, oh, lacaniano c'è questo, c'è la lama della tua scrittura, cioè in qualche modo disattivare la comunicazione e un'informazione di significato. E quindi sta sulla dimensione sonora. Volevo, mi piaceva questa cosa, a me veniva in mente un po' la goccia, no? Che casca quando piove, la goccia che casca dalla foglia. A un certo punto si forma una sorta di figura che si stacca da sé, che è sta a distanza da te, però è prodotta da te, senza più un'effettiva relazione, no? Per dire, una metafora per rispondere un po' anche alla questione di prima. No? Cioè un po' ne parlavo quando si è fatto il video sul link, no? Che questo indice si forma piano piano. Non è una fantasia d'Orfeo, è che Orfeo, cioè, andando avanti, crea uno spazio per un'apparizione linguistica innanzitutto e poi fantasmatica e così. Cioè un po' qualcosa che riguarda la distanza tra il soggetto e la sua condizione, no? Che sono relati irrelati. È vero, è perché, così, non questa, so perché, questa lingua questo lo sapete voi psicologi perché succede. No, io lo faccio da quando ero bambina e non ho mai smesso. Sì, sì, se non c'è qualcun altro. Hai detto due volte che siete suonati, allora volevo, forse da linguista, però volevo sottolineare, per chi non l'avesse capito, che non è la copula con l'aggettivo siete suonati, ma è l'ausiliare col participio passato, cioè è passivo, venite suonati. Tutto quello che state dicendo adesso significa che c'è qualcosa, la lingua, il ricordo, non lo so, quindi è uno stream of consciousness in cui siete agiti in gran parte, almeno non lo sto dicendo io, sto parafrasando quello che dicevi tu e mi sembrava utile capire la struttura linguistica in cui lo dicevi. Poi volevo farti però una domanda che è una curiosità, e cioè fra l'altro che hai menzionato ci sono le formule di devozione, che non sono né la letteratura alta. Me ne sono andate alcune che ho visto proprio aprendo il libro che me l'hai dato. Oculi mei, memento mori, costo la figlia, che è un'allusione al Genesi. Santo paraclito, però paraclitoride. Lussuri e penitenti fioretti, peccano contro natura, magistralmente però. E ce ne sono infinite. Allora, perfetto. Cioè, fra le varie cose che echeggiano, i titoli dei film... la letteratura maggiore, quella anche aulica, quella obbligatoria, e c'è tutta c'è questo affiorare continuo delle formule di devozione. Allora ti faccio una domanda personale. Cioè, magari poi la risposta è più ovvia è sì, un po' tutto, però tu, queste formule di devozione, secondo te, hanno una funzione simile a quella della letteratura, cioè un corpus, diciamo così, canonico, maggiore, che risuona? Oppure sono nostalgia umida del passato, di quando siamo stati educati con quelle formule, oppure invece nostalgia quasi tipo Pasolini, gli scritti corsari di un paese, di una mente comune che puoi compiangere ma anche un po' rimpiangere, che... oppure sono solo suoni? Ecco. Che è dal punto di vista morale, etico, ma anche conoscitivo, la cosa più importante che ho fatto per quanto riguarda la mia ricerca in questo libro qua. Che poi lo puoi cogliere, come non cogliere, lo puoi ignorare, perché puoi appunto prendere anche solo il lato appunto vocale, vitale. Però in realtà c'è a un certo punto con questo libro, ma non solo con questo, anche con Anatema, la scelta durissima, terribile, di abolire il concetto di, che è una cosa politica, cioè io sono diventata internazionalista, convintamente internazionalista, cioè dopo aver fatto una gioventù, come ti ricordi, di comunismo farlocco, non capivo un cazzo, cioè ero fra i ragazzi, ora sono davvero, non so se comunista, ma certamente internazionalista, aborro padre, famiglia, chiesa, Stato. Aborro proprio, me la rifiuto e ci metto la pietra sopra, perché da poeta posso farlo, se purtroppo se insegnassi non potrei farlo, eccetera, eccetera. Da poeta posso permettere sto lusso, pagare costa, perché vuol dire stare marginali, però è questo. E la formula liturgica è importantissima, perché tutto il mio esordio poetico invece è intriso di amore forsennato per un cattolicesimo barocco meridionale, che in questo momento invece è davvero stato archiviato, e però ha una sua dignità. La parte finale è una parte lirica in cui c'è il disamore, l'amore disamato, però non è che costi poco, costa molto. Questa è la parte costosa a livello umano. Quindi nostalgia, certo. È nostalgia della nostalgia che ha agito così. Quindi ti ringrazio della domanda, anzi, perché è un aspetto che non era emerso questo, e perché Paolo, lo so che lui è un lirico, e quindi però io non sono tanto, quindi dice no, non parlo della parte lirica, se no la scontento. No, l'avevo detto del disamore, hai visto, l'avevo, del disamore, della presa di coscienza, così l'avevo un po' accennato. No, io voglio dire, per quanto riguarda questa cosa che te ti viene a ridere, non mi ricordo purtroppo come si chiama, ma c'è un ricordo di Romano Bilenchi, in Amici, che ricorda vari personaggi, e ricorda un suo amico che si occupava di arte contemporanea e era un battutista, ma è famosissimo, ora mi viene in mente, forse Mazzacurati si chiamava, ecco, Mazzacurati. E diceva che è quello, non so, che ha detto... Guttuso è una picassata alla siciliana, che è geniale, tra l'altro, no? Come anche conoscitivamente. E lui diceva, io mi accorgevo che lui non le pensava, ma fiottavano, perché ci rideva per primo lui. Cioè le diceva e poi rideva come se l'avesse detto un altro, no? E quindi rideva. Sei internazionalista e forse anche un po' più verso Bakunin, tra l'altro non mi prenderà più Stato, Chiesa, patriarcato, nulla. Io me ne rallegro, però quello che ti dicevo è che tra l'altro a Firenze c'è l'ombra di Bakunin, De Gubernatis, che era un pazzo scatenato, professore di sanscrito e di mille altre cose, è finito poi come professore di letteratura italiana. Ai tempi ci si poteva sbizzarrire. Lui a un certo punto, lo so perché ho studiato l'archivio dell'Istituto di Studi Superiori, che era il babbo dell'università attuale, e solo nel 24 Gentile l'ha resa università, e io facevo ricerche d'archivio, e De Gubernatis, che era professore universitario a 23 anni, a un certo punto si dimette, scrive a Villari, Pasquale Villari, positivista, e dice: mi dispiace ma non posso più partecipare perché lo Stato io lo aborro, perché aveva conosciuto Bakunin e aveva preso un'ubriacatura completa che gli dura 3 mesi. Angelo De Gubernatis, esattamente, antropologo 2000, ha scritto un dizionario biografico degli italiani, ha fatto di tutto, era un pazzo scatenato, e dopo 3 mesi implora Villari dicendo: no, ma mi ridai lo stipendio, perché comunque non è vero, forse è esagerato Bakunin. No, nel tuo caso... No, e poi comunque poi appunto la scrittura, la tua scrittura è così, lo fa, ha fatto una bella serie di congedi, diciamo, no? da varie cose. Madonna. Madonna. Madonna. Madonna. Madonna. Madonna.